Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Venezia Orsoni si dimette da sindaco dopo il patteggiamento della condanna a 4 anni. Abbandonato dalla sua giunta, il PD gli aveva chiesto di fare un passo indietro. Marcello Dell'Utri è in carcere a Rebibbia, dopo l'estradizione sarà trasferito a Parma. Il Movimento 5 Stelle sceglie l'accordo con Farage al Parlamento Europeo. Radio 24, il sindaco di Livorno Nogherin, non è un'alleanza. Consiglio dei Ministri, oggi arriva la riforma della pubblica amministrazione, nello stesso decreto i poteri anticorruzione a cantone. In Iraq prosegue l'avanzata degli jihadisti, Obama annuncia misure militari ma senza truppe, l'Iran offre il suo sostegno. Brasile, mondiali al via tra feste e scontri, i padroni di casa piegano la Croazia con Neymar e un rigore fantasma. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione di Radio 24, ben ritrovati con questo appuntamento con l'informazione. E partiamo subito con la politica, un'altra giornata pesante per il Partito Democratico dopo la ribellione dei 14 senatori. Oggi il caso che scuote il PD è quello delle dimissioni del sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni. Partiamo da qua con Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Alessio, proprio così, dopo i dissidenti arriva nel PD la tegola Orsoni, il sindaco di Venezia si dimette per sottolineare la sua estraneità alla politica. Mi sono messa a disposizione del Consiglio per perfezionare gli atti urgenti, dice Orsoni, che attacca. Purtroppo ho dovuto constatare le reazioni opportunistiche e ipocrite degli esponenti che hanno sostenuto la mia giunta e non ci sono più le condizioni minime per continuare. Quello che mi ha veramente amareggiato di tutta questa storia è il comportamento inaccettabile del PD, in modo superficiale e farisaico con cui hanno trattato la mia vicenda, in particolare Renzi. La decisione arriva dopo quella che è stata definita la scomunica da parte del PD e soprattutto del vice segretario Deborah Serracchiani. Siamo umanamente dispiaciuti per la condizione in cui si trova Orsoni, ma quanto è accaduto a seguito di un approfondito confronto abbiamo maturato la convinzione che non vi siano le condizioni perché prosegua il suo mandato di sindaco di Venezia. Attesa ora l'assemblea del PD di domani, che dovrà anche trattare l'autosospensione dei 14 senatori democratici in solidarietà con Radino Mineo e Vannino Chiti, attacca questa mattina Zanda, il capogruppo PD al Senato. Nelle commissioni bisogna essere leali e responsabili. Di Mineo non condivido né le opinioni politiche né i comportamenti. A te Alessio. Grazie Elisabetta, e sentiremo più avanti anche l'assessore di Venezia, Tiziana De Agostini, che con le sue dimissioni ha aperto oggi il caso a Venezia, tirando in ballo il sindaco Orsoni, poi anche il coordinatore del PD Veneto De Menec, perché a questo punto la questione investe comunque tutto il Partito Democratico, dopo che Orsoni ha sostanzialmente detto la campagna elettorale me l'ha pagata il PD, io non ne sapevo nulla. Torneremo su questo argomento più avanti. Adesso invece un'altra inchiesta, quella che ha visto in passato la condanna per l'ex senatore del PDL Marcello Dell'Utri, che adesso è atterrato questa mattina a Roma da Beirut dopo l'estradizione dal Libano e dopo la condanna definitiva a 7 anni, come dicevamo, per concorso esterno in un'associazione mafiosa. È stato trasferito a Rebibbia ma andrà a Parma. L'hanno chiamata operazione riservatezza, quella scattata questa mattina all'alba all'aeroporto di Fiumicino. Il volo dell'Alitalia con a bordo Marcello Dell'Utri, estradato dal Libano e atterrato alle 6.45, insieme a lui la figlia Chiara, l'ex senatore di Forza Italia, è stato preso in consegna dai funzionari ed agenti della polizia di frontiera. A quanto si è appreso è apparso abbastanza provato, ma ha camminato senza problemi nel breve percorso all'interno dell'aeroporto. Ora in viaggio, in ambulanza, verso il carcere di Parma, un penitenziario attrezzato con un centro clinico in grado di offrire cure adeguate. La richiesta di trasferimento avanzata dallo stesso ex senatore di Forza Italia ha avuto dunque l'avallo dei giudici di Palermo. Finisce così ufficialmente la latitanza del parlamentare azzurro arrestato il 12 aprile all'hotel Fenice di Beirut e dal 16 aprile agli arresti ospedalieri nella capitale libanese dopo la condanna definitiva a 7 anni in secondo grado per concorso esterno in associazione mafiosa. Durante questi 2 mesi ha però più volte ripetuto di non essersi allontanato dall'Italia per sfuggire alla cattura, come dimostrerebbe, secondo i suoi legali, l'uso della carta di credito personale e del cellulare grazie ai quali è stato rintracciato. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Resta in carcere Chiara Rizzo, la moglie di Amedeo Matacena, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e latitante tuttora a Dubai. Lo ha deciso il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, che ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati di Chiara Rizzo. Arresti domiciliari invece per l'ex ministro Claudio Scajola, sempre su decisione del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, che ha accolto in parte il ricorso dei legali di Scajola. Scajola che sarà trasferito nelle prossime ore nella sua casa di Imperia. E ora parliamo invece dell'inchiesta di Napoli sulla corruzione nella Guardia di Finanza. Avverto il dovere verso l'opinione pubblica, l'istituzione di cui faccio parte e la mia famiglia, di proclamare la mia totale estraneità alle ipotesi che sono state formulate. Così il generale Vito Bardi, comandante in seconda della Guardia di Finanza, indagato per corruzione dalla Procura di Napoli, si è difeso nel primo interrogatorio davanti ai magistrati. Le indagini della Procura proseguono, le vicende delle mazzette versate per ammorbidire le verifiche fiscali che hanno portato ieri anche all'arresto del comandante provinciale di Livorno della Guardia di Finanza, Fabio Massimo Mendella, potrebbe essere un caso isolato oppure invece fare parte di un sistema più ampio. Collaudato è quello che intendono accertare i magistrati della Procura di Napoli. E ora cambiamo argomento, parliamo del Consiglio dei Ministri in vista oggi con la riforma della pubblica amministrazione, ma anche il decreto anticorruzione che dovrebbe affidare i poteri, gli attesi poteri al commissario Raffaele Cantone. Tutto questo potrebbe confluire in un solo decreto, Consiglio dei Ministri che si riunisce al ritorno dopo la visita in Oriente durata 4 giorni del Premier Matteo Renzi. Facciamo il punto anche su questo con il nostro Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, è un messaggio forte quello che il governo vuole mandare oggi dal Consiglio dei Ministri e le misure anticorruzione vanno viste per questo insieme alla riforma della pubblica amministrazione, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'esecutivo è allora in procinto di varare un decreto che darà maggiori poteri all'autorità anticorruzione, al suo presidente Raffaele Cantone, un mandato forte su Expo, funzioni di controllo rafforzate, possibilità di visionare le carte delle gare e di irrogare sanzioni. L'autority passerà sotto il controllo del governo, parte delle sue funzioni saranno trasferita al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, obiettivo evitare sovrapposizioni. Altra riforma che sta per muovere i suoi primi passi, quella della pubblica amministrazione, i punti più urgenti entreranno nel decreto, vi sarà poi un disegno di legge delega, tre i pilastri della riforma, organizzazione, innovazione, persone. Quindi l'assicurazione ai sindacati del ministro Madia, non ci saranno prepensionamenti, quanto alla mobilità escludo che si possa arrivare ai 100 chilometri, ha detto il ministro. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo, dunque queste le attese per il Consiglio dei Ministri di oggi. Chiudiamo la pagina politica con la notizia che riguarda l'alleanza in Europa tra il Movimento 5 Stelle e il movimento politico guidato invece da Nigel Farage. Ieri il voto sul blog di Beppe Grillo ha dato questo esito, quindi si farà questa alleanza, l'esito favorevole a questa alleanza, che però non viene così definita dal sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, neo sindaco del Movimento 5 Stelle nella città toscana, che a 24 mattino, questa mattina su Radio 24, ha così commentato questa decisione. Le dico la verità, non ho votato perché, mi creda, non ho avuto neanche il tempo per leggere questa cosa. Sono completamente assorbito in questo momento. Dal sindaco, da fare il sindaco. Sì, no, non solo dal fare il sindaco, dal comprendere e mettere e apportare già delle modifiche alla macchina comunale. Ma lei sta bene questa alleanza, questo risultato che è uscito? Guardi, questa non è sicuramente un'alleanza, questa è una cosa che io ho già spiegato molte volte ai suoi colleghi. Si tratta semplicemente di un'opportunità politica e non è un'alleanza. Alleanza politica, la semantica ha un'importanza notevole, certo. Cioè alleanza è un conto e semplicemente opportunità è un altro, cioè l'opportunità in questo caso permette al gruppo degli europarlamentari di avere totale indipendenza, totale, il che vuol dire che ci può essere contrasto anche su tutte le votazioni, però il gruppo degli europarlamentari 5 Stelle sarebbe comunque presente, questo è quello che conta. E ora la cronaca, prima in Italia e poi all'estero. Cominciamo con l'Italia, ha ucciso il vicino di casa con 5 colpi di pistola dopo una lite, probabilmente per il volume troppo alto della televisione. È accaduto a Villaricca, in provincia di Napoli, l'omicida Giovanni Chianese è un pensionato di 64 anni, incensurato, ha aggredito la vittima Davide Elia Miccio, 29 anni, con piccoli precedenti, in strada a Corso Europa di Villaricca, appunto in provincia di Napoli, sparando con una pistola di calibro 7,65 regolarmente detenuta. Poco prima ci sarebbe stata l'ennesima lite tra i due. E ora invece con la cronaca andiamo in Iraq, dove avanza l'avanzata jihadista verso Baghdad. Sentiamo. L'Iran combatterà il terrorismo sunnita in Iraq e non permetterà a paesi stranieri di esportare il terrore nel paese. Il presidente iraniano Hassan Rouhani ha preso il telefono e ha chiamato il premier iracheno Nouri al-Maliki. Teheran bolla i combattenti dell'ISIS, Stato Islamico dell'Iraq e della Siria, come terroristi fanatici e per combatterli avrebbe inviato a Baghdad 3 battaglioni delle forze speciali dei Pasdaran. Anche Teheran sarebbe nel mirino di questi miliziani, lo ha confermato con un messaggio il portavoce dell'ISIS. Il cuore del messaggio però è che la battaglia arriverà presto nella capitale irachena, dunque siate pronti e indossate le cinture. I miliziani sono a circa 150 km a nord. Ieri sono entrati a Jalala e Sadiya, a nord-est del capoluogo provinciale di Bakuba, senza incontrare alcuna resistenza. Ma oggi il governo ha reagito bombardando le postazioni jihadiste. L'esecutivo di al-Maliki afferma di aver messo a punto un piano per proteggere Baghdad. Anche dagli Stati Uniti arrivano rassicurazioni sulla sicurezza della capitale, tanto da aver mantenuto il personale diplomatico al proprio posto. Ma per Obama l'Iraq è diventato il primo problema sul tavolo. Tutte le opzioni sono aperte, ipotizzati attacchi aerei, droni, ma no per il momento all'invio di truppe. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E buongiorno ad Alberto Negri. Buongiorno a tutti voi. Alberto, al di là della questione della situazione sul campo che abbiamo appena raccontato in questo servizio di Valeria De Rosa in Iraq, la situazione, i confini di questa situazione si stanno allargando naturalmente, i curdi che puntano a Kirkuk, l'Iran che promette sostegno a Baghdad, la Turchia in allerta, gli Stati Uniti chiamati in causa ovviamente per fermare questa rivolta jihadista. Qual è la situazione secondo te, come potrebbe evolvere lo scenario anche internazionale? Alberto. Ma dunque, lo scenario internazionale è già in evoluzione, anche perché i curdi, Kirkuk se la sono già occupata e questa città che era contestata tra la regione autonoma curda e il governo centrale ormai è passata in mano ai curdi, che si stanno scavando praticamente il loro stato all'interno dell'Iraq, i confini con la Turchia e con l'Iran. Poi innanzitutto bisogna ricordare che questi guerriglieri dell'ISIL, dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, combattono già su due fronti internazionali, uno è quello in Iraq e l'altro è quello in Siria, quindi si tratta già di un campo di battaglia internazionale. E poi l'intervento dell'Iran fa anche capire molto bene qual è la natura dello scontro, cioè quello tra sciiti e sunniti, uno scontro che ormai è trasversale, che si sta combattendo non soltanto in Iraq ma anche in Siria e sta infiammando le tensioni anche in Libano. Che cosa faranno gli americani? Però questo è l'interrogativo. Si può pensare che facciano cadere un governo di un paese con oltre 30 milioni di abitanti e 3 milioni di barili di produzione di petrolio al giorno? Ma mi sembra quasi impossibile. Certamente se lo facessero sarebbe una perdita notevole di credibilità. Grazie Alberto Negri dunque per questo commento sulla situazione in Iraq. Adesso torniamo invece in Italia, dove continuano gli sbarchi. Un centinaio di migranti sono stati salvati ieri sera nel canale di Sicilia dalla Guardia Costiera. E tra le emergenze sanitarie connesse all'immigrazione c'è anche la tubercolosi farmacoresistente. L'Italia resta sì uno dei paesi dove la malattia è meno diffusa, ma per i migranti sono necessari molti controlli sanitari. Lo sostiene tra gli altri Susanna Esposito, presidente della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica, direttrice dell'unità di pediatria del Policlinico di Milano. L'ha intervistata Lucia Maffei. Noi in Italia siamo tuttora un paese definito a bassa endemia, perché abbiamo meno di 10 casi per 100.000 abitanti, ma vi sono soprattutto nel primo anno di vita regioni in cui il numero di casi per abitanti è sicuramente molto rilevante. In quali regioni c'è stato un aumento dei casi? Ovviamente nelle regioni più grandi come Lombardia e Lazio, ma indubbiamente anche in Sicilia. E nel caso della tubercolosi portata dai migranti, quali sono le caratteristiche della malattia? Sicuramente in certi paesi, soprattutto nei paesi dell'est Europa, il problema dei ceppi altamente resistenti è un problema molto rilevante in termini di frequenza. Che cosa si può fare in termini di prevenzione? Il fatto che i migranti provengano da paesi con malattie diverse dalle nostre porta a supportare la necessità di controlli sanitari, soprattutto prima dell'inserimento in comunità. Io questo non lo considero un atteggiamento discriminatorio, ma anzi lo considero un atteggiamento importante in termini di salute pubblica. 13 e 15 minuti, ci fermiamo per il traffico, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Naturalmente andremo anche in Brasile, dove ieri c'è stata la giornata inaugurale dei mondiali, l'esordio dei padroni di casa, ma poi torneremo anche a Venezia per capire quali sono adesso le sorti della città dopo le dimissioni del sindaco Orsoni. A tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Venezia si dimette, Orsoni, dopo il patteggiamento della condanna a 4 anni, abbandonato anche dalla sua giunta, il PD gli aveva chiesto di fare un passo indietro. Marcello Dell'Utri è in carcere a Rebibbia dopo l'estradizione, sarà trasferito a Parma. Il Movimento 5 Stelle sceglie l'accordo con Farage al Parlamento Europeo. A Radio 24 il sindaco di Livorno, Nogarin, dice non è un'alleanza. Consiglio dei Ministri, oggi arriva la riforma della pubblica amministrazione, nello stesso decreto anche i poteri anticorruzione per Cantone. In Iraq prosegue l'avanzata degli jihadisti, Obama annuncia misure militari ma senza truppe, l'Iran offre il suo sostegno. Brasile, mondiali al via, ieri tra feste e scontri, i padroni di casa piegano la Croazia con Neymar e però anche un rigore fantasma. E adesso torniamo a Venezia, partiamo proprio da qua in questa seconda parte di Effetto Giorno per commentare le dimissioni del sindaco Giorgio Orsoni dopo il forte pressing che era arrivato questa mattina con la richiesta di dimissioni del vice segretario del PD Deborah Serracchiani. Orsoni che però tira in ballo anche pesantemente il PD. E allora ne parliamo con il segretario generale del PD Veneto, Roger De Menec. Buongiorno. Buongiorno, mi sente? Vediamo, abbiamo un problema forse con la linea. Il segretario regionale del PD Veneto, Robert De Menec, non lo sentiamo in questo momento. E allora tra poco dovremo sentire anche invece l'intervista con Tiziana Agostini, che era assessore alle politiche educative del Comune di Venezia e che questa mattina aveva annunciato le sue dimissioni proprio per forzare la situazione, per mettere in difficoltà la giunta di Venezia con Orsoni traballante. Poi Orsoni ha tagliato la testa al toro, quest'oggi si è dimesso lui direttamente. Adesso siamo in grado di sentire De Menec. Buongiorno De Menec. Buongiorno a tutti. Allora, intanto le chiedo se secondo lei sono pesate di più le pressioni che sono arrivate dai vertici del PD con la richiesta di dimissioni della Serracchiani, vice segretario del vostro partito, oppure se a pesare è stato anche la presa di posizione di alcuni elementi della giunta della città di Venezia che avevano lasciato capire che non avrebbero seguito Orsoni. E credo che in questa situazione a pesare sia stato la situazione in genere, che era diventata obiettivamente insostenibile, perché anche e soprattutto dopo la scarcerazione il rapporto che ci deve essere di fiducia e soprattutto sul piano della prospettiva del governo di una città non c'era più. Questo è obiettivamente quello che è successo. E credo che quindi alla fine tutto quello che lei ha detto abbia influito per far sì che Orsoni si dimettesse e credo che sia la soluzione migliore, ecco, soprattutto per la città. Quindi la soluzione migliore. Perché secondo lei erano dovute queste dimissioni di Orsoni? Ma per tanti motivi, perché come dicevo la situazione dal punto di vista della fiducia reciproca era assolutamente deteriorata, perché siamo nei confronti, non possiamo dimenticarlo, al di là di tutto, di una inchiesta che ha scoperchiato veramente qualcosa di incredibile dal punto di vista della costruzione di un meccanismo malato, direi così, di malaffare, talmente evidente, talmente pesante da rendere insostenibile poi, al di là delle responsabilità personali che la magistratura ovviamente accerterà, era obiettivamente sostenibile continuare in un governo di una città come quella di Venezia. Io credo che senta, Demenec, però Orsoni ieri ha anche tirato in ballo pesantemente il suo partito, il vostro partito, il Partito Democratico, dicendo sostanzialmente mi hanno chiesto di fare il sindaco, mi hanno detto di non preoccuparmi per la campagna elettorale che avrebbero pagato loro, poi ha pagato il consorzio, non sono cose che riguardano solo me ma riguardano anche il PD. Quindi se cado io, il suo ragionamento era deve cadere anche qualche altra testa sopra di me. Io credo che su questo per noi la nostra posizione, la linea del Partito Democratico a tutti i livelli è esattamente quella che era ieri e quella che sarà sempre. Quindi una posizione molto dura con chi ha costruito logiche di malaffare. E su questo vogliamo essere veramente... Però questo vale anche per i vertici vale del PD. Vale anche con chi dei vertici del PD sarà ritenuto responsabile, e lo vedremo insomma nelle prossime ore, nelle prossime giornate, di aver tradito di fatto il mandato degli elettori insomma e la fiducia dei cittadini. Quindi su questo noi non abbiamo mica intenzione di fare sconti, non li abbiamo fatti fin dal primo momento, e questo non riguarda questa o quella persona, e questo è importante da dire. Noi quindi scusi Demenec, tanto per capire, certo, no, ragionamenti personali no, però tanto per capire, si dovrà andare a guardare chi ha avallato questa campagna elettorale, la candidatura di Orsoni, e se ci saranno responsabilità anche politiche, bisognerà andare fino in fondo. Assolutamente sì, credo che non c'è un'altra strada, non c'è un'altra via, se vogliamo, in questo momento di grandissima difficoltà in cui i cittadini pensano a credere in una buona politica, non possiamo fare che questo percorso. Un'ultima cosa. Questo percorso vale per tutti. Un'ultima cosa le voglio chiedere: adesso cosa accadrà a Venezia, visto che Orsoni si è dimesso, però credo che di aver capito che ha tolto le deleghe anche ai suoi assessori, quindi non c'è più giunta, ci sarà una fase di transizione e poi un commissariamento. Cosa succederà? Assolutamente sì, ci saranno 20 giorni per il ripensamento del caso eccetera, ma io credo che ormai questa sia una decisione presa, poi arriverà un commissario e quindi ci prepareremo alle nuove elezioni, la primavera del 2015, fra l'altro scadenza naturale del mandato del sindaco attuale, e quindi una gestione di fatto commissariale della città in cui credo tutti dovremmo comunque contribuire nell'interesse dei cittadini ovviamente. Grazie, grazie Demenec. Adesso dovremmo andare in Brasile, però abbiamo problemi con le linee evidentemente quest'oggi. Questo intanto era il segretario generale del PD del Veneto, Demenec, che vi ricordo ci ha dato anche una notizia per quanto lo riguarda. Comunque la massima autorità del PD in Veneto, la vicenda non si chiude a Venezia, ma le dimissioni di Orsoni avranno ripercussioni anche sui vertici nazionali del PD che hanno seguito, avallato la candidatura di Orsoni con il finanziamento da parte del consorzio della campagna elettorale dell'ex, a questo punto, sindaco della città. Andiamo allora, Benedetti Mondiali, ci fanno tirare il fiato, parliamo d'altro e ci fa piacere. E intanto troviamo Dario Ricci. Dario? Eccoci Alessio. Ci hai fatto sospirare perché a un certo punto la linea ci ha tradito. Non è questa la novità, direi, di questi mondiali, tra le varie cose, quindi non sospirate. Va bene, va bene. Senti Dario, In alto i cuori. Intanto cominciamo dalla partita di ieri sera, e ti chiedo subito se sulla stampa brasiliana, i commenti di questa mattina, c'è l'euforia per la vittoria, comunque un esordio con un 3-1, anche se c'è stata qualche ombra, è sempre un bel risultato, oppure se qualche venatura e polemica c'è per questo rigore fantasma che ha un po' risvegliato un Brasile che fino ad allora insomma era sull'1-1 con la Croazia, ricordiamocelo. Ecco, questa è la risposta di Dario Ricci, è crollata la linea di nuovo dal Brasile. Proviamo a ricollegarci, evidentemente è un problema, non lo so di che tipo, sicuramente di linee sovraffollate dal Brasile, perché è ovvio che in queste ore l'attenzione del mondo è concentrata, gli occhi del mondo sono concentrati sul Brasile. Teniamoci pronti per andare avanti sugli altri argomenti, perché il tempo passa, se invece riusciamo a recuperarlo, Dario Ricci, cerchiamo di portare a fondo alla fine del collegamento. Facciamo così. dalla regia, ma andiamo invece il servizio sul turismo, perché ci sono i dati che riguardano il turismo in Italia e sono dati di Confcommercio che riguardano la scarsa richiesta da parte dei turisti internazionali delle mete del mezzogiorno. Sentiamo. Si allarga il gap tra il nord e il sud del paese, accentuato dalla crisi degli ultimi anni, soprattutto sul turismo, una risorsa aurea per il mezzogiorno. Solo il 13,2% dei turisti stranieri, infatti, secondo Confcommercio, sceglie le regioni dell'Italia meridionale, il 44,3% preferisce invece il nord-est. Questo a dispetto dell'enorme capitale artistico, culturale, ambientale ed enogastronomico del nostro meridione, fortemente sottoutilizzato. Perciò l'Associazione dei Commercianti avverte: è un errore puntare esclusivamente sull'industrializzazione del mezzogiorno e l'inefficacia delle politiche di sviluppo che puntano solo a questo è dimostrata dal fatto che il Sud esporta solo il 13% della sua produzione rispetto a circa il 32% del Nord. Il Sud deve costruire un'offerta turistica suggestiva, attraente, attivando e realizzando infrastrutture necessarie per trasportare merce e cittadini in maniera più semplice ed efficiente. Così il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, le potenzialità di crescita, dice, ci sono in quest'area, penso anche ai giovani che certamente hanno nel loro DNA la voglia di crescere e di informatizzarsi sempre di più. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Venezia Orsoni si rimette da sindaco dopo il patteggiamento della condanna a 4 anni. Abbandonato dalla sua giunta, il PD gli aveva chiesto di fare un passo indietro. Marcello Dell'Utri è in carcere a Rebibbia. Dopo l'estradizione sarà poi trasferito al carcere di Parma. Il Movimento 5 Stelle sceglie l'accordo con Farage al Parlamento Europeo. A Radio 24 però il sindaco di Livorno, Nogarin, dice non è un'alleanza. Consiglio dei Ministri, oggi arriva la riforma della pubblica amministrazione. Nello stesso decreto i poteri anticorruzione per Cantone. In Iraq prosegue l'avanzata degli jihadisti. Obama annuncia misure militari ma senza l'invio di truppe. L'Iran offre il suo sostegno. Brasile, mondiali al via tra feste e scontri. I padroni di casa piegano la Croazia con Neymar e un rigore fantasma. Adesso è il momento della borsa. Borse in diretta. Siamo in collegamento con Eleonora Micheli di Radio Col. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Piazza Affari, vediamo, insomma, negativa, meno 0,96%. Sembrano negative anche le altre borse europee. Quali sono, Eleonora, oggi i temi che, insomma, alimentano questa giornata di scambio a Piazza Affari? Sì, tutte le borse europee sono deboli, anche perché preoccupa la delicata situazione in Iraq, con il presidente Barack Obama che ha già detto che gli Stati Uniti stanno monitorando. Questo ovviamente ha dato il là per far salire il prezzo del petrolio, che è balzato a $107 al barile, ma soprattutto ha dato il là anche per vendere le azioni sulle varie borse, anche perché ricordiamo che nei giorni scorsi avevano toccato nuovi massimi. Si vendono a Milano soprattutto le azioni delle banche, con il Banco Popolare ad esempio in calo attorno al 3%, ma anche UBI, che va male, perde oltre il 2%, va in controtendenza però in PS più 4,38%, mentre procede l'aumento di capitale da 5 miliardi. Rialzo inoltre anche Finmeccanica più 1,8% sull'indiscrezione riferita dal Corriere della Sera, secondo la quale il nuovo amministratore delegato Moretti starebbe studiando la cessione dell'americana DRS. E questa era la borsa con Eleonora Micheli, grazie per essere stata con noi. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo in diretta su Radio 24 con Effetto Giorno e con il nostro Dario Ricci in Brasile. Dario, proviamo questa volta a vedere se riusciamo a parlare con te. Sì, eccomi Alessio. Cioè, le difficoltà, spieghiamo anche ai nostri ascoltatori, sì, derivano anche dal fatto che siamo in trasferimento da Mangartiba, da Icatacuruso, da Retiro Azzurro verso l'aeroporto di Rio de Janeiro, dal dove prenderemo il volo per Manaus. Quindi, insomma, come si dice, stiamo lavorando per voi, ecco. Allora, eravamo rimasti a commentare come si è svegliato oggi, sì, il Brasile, sì, dopo, sì, questa vittoria. No, un Brasile che si è svegliato con lo spirito di chi ha tirato un sospiro di sollievo, perché vista la partita di ieri con la Croazia, i verde oro hanno rischiato parecchio, e oggi la stampa non riconosce l'aiutino avuto dall'arbitro Nishimura in occasione del rigore poi trasformato da Neymar, il fallo di Lovren su suffragge, ma insomma, vedere invece negli occhi i vari supporter della torcida verde oro, si vedono dei sorrisi abbastanza tra l'imbarazzato e il malizioso, ecco, questo primo regalino del mondiale è arrivato a destinazione. E come si fa a non solidarizzare con i croati, Alessio? lo so. È quello che, diciamo, sono le battute che oggi si fanno di qua, dall'oceano in Italia. Senti, Dario, oggi c'è un'altra partita, poi toccherà all'Italia. Notizie da Casa Azzurri? Beh, oggi tra l'altro le partite ce ne sono tre, Ah sì, certo. L'altra del gruppo del Brasile, certo. Poi soprattutto Australia-Cile va bene in serata, ma poi alle 21 uno Spagna-Olanda che ha le cazzi baffi, che è la edizione della finale del 2010. Vedremo anche come il pubblico brasiliano accoglierà questo Diego Costa, no? Il centravanti spagnolo, sì, ma brasiliano di nascita, che ha scelto appunto la nazionalità iberica per il nostro Diego Motta, che ha scelto la nostra appunto nazionalità. L'altra volta a Volta Redonda sono stati parecchi fischi. Dicevamo dell'Italia, cioè, anche gli azzurri in viaggio verso Manaus con questa brutta notizia di ieri, l'infortunio muscolare a Mattia Di Sciglio, che doveva essere uno dei punti fermi dello schieramento di Prandelli, e invece sarà fermo non ci sarà sicuramente contro l'Inghilterra, tornerà a disposizione per Costa Rica, ma probabilmente in campo con l'Uruguay, e quindi difesa ridisegnata probabilmente con Paredes e Barzagli al centro, Darmian sulla destra e Chiellini spostato sulla sinistra, quindi questa dovrebbe essere la difesa ridefinita da Prandelli. Al momento dovessimo scommettere sulla formazione, punteremo tutto su questa. Grazie a Dario Ricci, come hai sentito, in viaggio da una città all'altra, insomma, in Brasile. Lo risentiremo oggi nel corso della programmazione di Radio 24, naturalmente il nostro inviato ai mondiali. Adesso invece vogliamo parlare di un altro argomento, perché riguarda l'agricoltura, quello che mangiamo sulle nostre tavole. I ministri dell'ambiente dell'Unione Europea hanno raggiunto ieri a Lussemburgo un importante accordo sul regolamento che attribuirà per la prima volta agli Stati membri il potere di vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul proprio territorio, anche se approvati a livello comunitario. Un risultato che però sembra lasciare invariate un po' le posizioni tra favorevoli e contrari alla coltivazione di OGM. Noi ne vogliamo parlare con Vincenzo Vizioli, presidente dell'AIAB, che è l'Associazione Italiana dell'Agricoltura Biologica. Buongiorno. Che consideriamo un po' il contraltare della possibilità di produrre OGM. Ricordiamo, in Italia non si può fare. Adesso c'è questa decisione dell'Unione Europea. Voi siete contenti, soddisfatti o non siete soddisfatti, Vizioli? Allora, intanto siamo soddisfatti che il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Fidenato rispetto alla sentenza del TAR che approvava e dava ragione al decreto. Quindi sì, a livello di legislazione italiana si è confermato che non si può produrre OGM. Sì. Allora, in generale questa proposta greca apriva uno spiraglio rispetto ai paesi, però non dava un quadro di indirizzo europeo, e quindi questo era un elemento di debolezza. Però secondo noi dietro questo accordo c'è qualche tranello. Il primo è quello appunto che i motivi di impedimento non possono essere quelli ambientali o relativi alla salute, quando il vero problema che poniamo rispetto agli organismi geneticamente modificati è proprio la contaminazione e quindi l'immissione nell'ambiente di geni estranei a quell'ambiente, e il problema che ancora nessuno ha valutato veramente gli effetti sulla salute, sugli animali, sull'ambiente di queste cose. L'altro elemento di debolezza è che non c'è una scelta politica del paese nel dire sì o no agli organismi geneticamente modificati, in quanto la scelta va fatta prodotto per prodotto, e quindi ogni qualvolta la Monsanto piuttosto che altre multinazionali presentano una pianta geneticamente modificata, si deve fare opposizione per motivi che sono diversi da quelli socio-economici, ambientali, che sono i veri motivi per cui l'Italia dice no agli organismi geneticamente modificati. Grazie a Vincenzo Vizzioli, presidente dell'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, per aver commentato insieme a noi questa notizia che veniva appunto dall'Europa. Adesso torniamo a parlare di inchieste, politica e corruzione dopo le dimissioni del sindaco di Orsoni. Cogliamo l'occasione anche per correggere, abbiamo detto nei titoli, il patteggiamento della condanna a 4 anni, ma sono naturalmente 4 mesi. Scandalo e corruzione, dicevamo, fu Enrico Berlinguer più di 30 anni fa a parlare per primo di questione morale. Di questo ci parla oggi l'inchiesta di Daniele Biacchessi. I partiti al governo ritengono che sia quasi un loro diritto decidere qui a Roma come distribuirsi gli incarichi nelle banche, nelle casse dei risparmi. La questione morale tirata in ballo da Enrico Berlinguer nella celebre tribuna politica del marzo 1981 è vicenda di cui tutti parlano in queste settimane di inchieste e scandali, ma in pochi intendono applicare alla lettera. Senza soluzioni certe, anche quel concetto rischia di restare un feticcio. Berlinguer pone la cosiddetta questione morale all'inizio degli anni Ottanta, cioè in un periodo costellato dall'appropriazione dei partiti di governo di allora, democristiani e socialisti, di tutte le cariche dei consigli di amministrazione delle aziende di Stato, in un periodo dettato anche dalla fuoriuscita del Partito Comunista Italiano dagli esecutivi di emergenza nazionale nati durante l'attacco del terrorismo degli anni 70. Diceva Berlinguer, la questione morale non si esaurisce nel fatto che essendoci dei ladri, dei corrotti, dei concussori in alte sfere della politica e dell'amministrazione, bisogna scovarli, bisogna denunciarli, bisogna metterli in galera. La questione morale nell'Italia d'oggi fa tutto con l'occupazione dello Stato da parte dei partiti di governo e delle loro correnti, fa tutt'uno con la guerra per bande, fa tutt'uno con la concezione della politica e con i metodi di governo di costoro che vanno semplicemente abbandonati e superati. Ecco perché dico che la questione morale è il centro del problema italiano. Solo 3 anni dopo queste frasi, Berlinguer se ne andava per sempre una sera di giugno a Padova durante un comizio al termine della campagna elettorale per le europee. Solo 11 anni dopo il pullman pulite della Procura della Repubblica di Milano scoperchiava la pentola del malaffare azzerando un'intera classe politica, partiti compresi. 33 anni dopo ecco ritornare il fantasma della corruzione con le indagini sulle grandi opere e sulle verifiche fiscali, tangenti sui lavori del Mose a Venezia, Expo a Milano, Guardia di Finanza e molto altro ancora da far emergere. In molte di queste inchieste sono coinvolti gli eredi del Partito Comunista di Enrico Berlinguer, da Orsoni a Venezia. Aggreganti, il compagno G, che almeno ufficialmente lavorava per conto del sistema delle cooperative rosse, ma vantava santi in paradiso allora nel PCPDS e oggi nel Partito Democratico. Berlinguer parlava di guerre per bande, che oggi si chiamano invece comitati d'affari, che contano nei partiti molto di più dei segretari. Allora il segretario del PC affermava il concetto di legalità. A noi, a cui certo non piacciono le galere, almeno basterebbe oggi la certezza della pena. Strade in diretta. Sull'autosole tra Bologna, Borgo Panigale e Modena Sud verso Milano ci sono ancora code di 5 km dopo l'incendio di un camion ora ormai spento. Ci sono code anche in carreggiata opposta. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, alle porte di Milano code per un incidente tra Grate e la tangenziale est in direzione di Milano. Altre code sulla tangenziale ovest di Milano tra la 7 Milano-Genova e Valtidone in direzione di Bologna. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code per lavori tra Finale Ligure e Borghetto Santo Spirito verso Ventimiglia. Mentre in direzione di Genova ci sono code di 2 km per un veicolo in panne tra Genova Aeroporto e l'innesto con la 7 Milano-Genova in direzione del capoluogo Ligure. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Venezia si dimette, Orsoni da sindaco dopo il patteggiamento della condanna a 4 mesi, il PD gli aveva chiesto di fare un passo indietro. Marcello Dell'Utri è arrivato oggi a Roma in carcere a Rebibbia dopo l'estradizione, sarà poi trasferito nel carcere di Parma. Il Movimento 5 Stelle ha scelto l'accordo con Farage a livello del Parlamento Europeo. Radio 24, però il neo sindaco 5 Stelle di Livorno Nogarin precisa, non si tratta di un'alleanza. Consiglio dei Ministri, oggi dovrebbe arrivare la riforma della pubblica amministrazione, ma nello stesso decreto anche i poteri anticorruzione in vista di Expo per Cantone. In Iraq prosegue l'avanzata degli jihadisti. Obama annuncia misure militari, ma senza l'invio di truppe. L'Iran offre il suo sostegno. Brasile, mondiali al via tra feste e scontri. I padroni di casa piegano la Croazia con Neymar e un rigore fantasma e festeggiano. Adesso è il momento di dare la linea a Mario Platero con America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti a America 24 da New York, Mario Platero. Una situazione terribile in Iraq, una situazione in evoluzione, insomma è una guerra civile con questi miliziani jihadisti dell'ISIS, che è Stato Islamico dell'Iraq e di Al-Sham, che sono legati ad Al-Qaeda, che stanno avanzando. C'è Al-Qaeda che sta cercando di prendere possesso dell'Iraq, di vendicarsi contro gli sciiti che sono a Baghdad. L'Iran a sua volta dice: beh, entreremo noi con le nostre armi a difenderli a Tikrit. A Tikrit invece ci sono i curdi. Tutto questo ha creato un pandemonio nei mercati del petrolio, perché questo significa ritardi nella produzione e dunque aumenti dei prezzi. Ne parleremo nei prossimi giorni, è una situazione in evoluzione. Dalla Casa Bianca il Presidente ha detto: tutte le opzioni sono sul tavolo, perché abbiamo un interesse cruciale nell'impedire che questi gruppi jihadisti si stabiliscano permanentemente in Iraq o in Siria. Certo, per l'America il problema è gravissimo e credo che Obama si stia pentendo amaramente di non aver preso decisioni diverse un anno fa, quando fece l'accordo con Putin sulla Siria. Ma oggi vorrei parlarvi di qualche cos'altro che è molto più vicino a noi, perché oggi si discute il piano del governo per la riforma della pubblica amministrazione. Ecco, la riforma della pubblica amministrazione è chiave, ma non soltanto per noi, perché negli ultimi mesi si è sviluppato un dibattito fortissimo sulla necessità di riformare le pubbliche amministrazioni a livello globale, partendo dal presupposto che una pubblica amministrazione forte, efficiente, che funziona, è la chiave per il successo di un paese. Quindi è la differenza tra avere una pubblica amministrazione che è una zavorra e che invece aiuta il paese. Ecco, mi ha colpito in particolare il libro di John Micklethwaite, di Adrian Woolridge. John Micklethwaite è il direttore dell'Economist. Adrian Woolridge è uno dei più brillanti giornalisti del magazine britannico. Titolo: The Fourth Revolution, la quarta rivoluzione, la corsa globale per reinventare lo Stato. Di questo ho parlato qualche giorno fa con John e con Adrian e vi ripropongo la mia chiacchierata. Buongiorno John. Buongiorno Mario. Adrian, buongiorno. Buongiorno. Now, thank you both. John, let me start with you. The Fourth Revolution. We called it the Fourth Revolution because l'abbiamo chiamata la quarta rivoluzione perché prima di questa ci sono state tre grandi rivoluzioni nei governi occidentali. La prima nel XV e XVI secolo, quando lo Stato-nazione si è affermato in Europa, lasciando indietro l'Asia. La seconda a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, con la rivendicazione delle libertà civili e l'affermazione delle democrazie nel mondo occidentale. E infine, nel XX secolo, c'è stato l'arrivo del welfare state, lo Stato sociale, che è quello in cui viviamo ancora oggi. Se vogliamo, c'è stata poi una mezza rivoluzione, portata avanti da personaggi come Ronald Reagan e Margaret Thatcher, ma non ha davvero cambiato le cose. La nostra opinione è che ora ci stiamo preparando a una nuova rivoluzione, in parte spinta dalle nuove tecnologie che stanno modificando il modo in cui si governa, ma anche perché si stanno diffondendo nuove idee. Ecco, quali sono queste nuove idee? Cosa c'è di diverso questa volta? Ci sono due elementi davvero nuovi. Oggi, molto più che in passato, c'è bisogno di un cambiamento, in parte perché i governi si sono enormemente indebitati e in parte per una questione demografica, cioè sempre meno giovani si troveranno a sostenere molti più anziani, questo è il pericolo. Ma contemporaneamente abbiamo anche un'opportunità, grazie appunto alle nuove tecnologie, che possono aiutare i governi ad essere più efficienti. Per esempio, nel settore dell'istruzione, un professore oggi può insegnare a migliaia di studenti via internet. Oppure nella medicina, ci sono dei sensori in grado di monitorare in ogni momento la salute della persona e di comunicare eventuali problemi al medico di riferimento. Questi sono strumenti già esistenti, che presto diventeranno universali. Il terzo elemento è la concorrenza a livello globale tra paesi molto diversi. Svezia, Finlandia, per esempio, ma anche Cina e India. Chiunque sarà in grado di essere più competitivo degli altri potrà davvero fare un balzo in avanti in termini di produttività. Per riassumere, dunque, abbiamo 1) la minaccia della bancarotta, 2) nuove tecnologie a nostra disposizione e 3) la pressione della concorrenza globale. John, questo è molto interessante, ma come si cambia il contratto sociale senza creare dimostrazioni e rivoluzioni per strada? Bisogna cominciare a cambiare le cose in modo che la gente possa vedere i risultati di questi cambiamenti. L'Italia è un esempio della difficoltà di cambiamenti e l'Europa in generale si trova nella condizione descritta da Jean-Claude Juncker, ex primo ministro del Lussemburgo. Tutti sappiamo cosa fare, ma non sappiamo come farci rieleggere una volta che l'abbiamo fatto. Ma siamo arrivati a un punto in cui non ci sono più alternative. L'Italia è l'esempio di uno Stato che si allarga sempre di più e a meno che non si faccia qualcosa per renderlo più competitivo, ci si troverà nei guai. Ma non è una cosa necessariamente negativa. Al contrario, proviamo a immaginare uno Stato più leggero ma che offra maggiori servizi alle fasce povere della popolazione, scuole migliori e ospedali migliori e in generale sia più orientato al sociale. Questo non solo aiuterebbe l'Italia ad essere più competitiva, ma aiuterebbe l'Italia anche a mitigare eventuali conflitti sociali. E questo è qualcosa che nel lungo termine andrà fatto, perché l'alternativa è la stagnazione. Ecco, ma come si fanno questi cambiamenti in pratica? Alcuni di questi cambiamenti si possono fare dal basso. L'unica cosa che deve fare il governo è mettersi da parte. Per esempio, scuole e ospedali possono cominciare ad usare le nuove tecnologie per fornire un servizio migliore. Questi sono cambiamenti che possiamo fare tutti quanti noi senza l'intervento dello Stato. Poi certo ci sono altre cose che richiedono un'azione del governo e sono le più difficili, ma sono possibili. Un esempio di un paese che l'ha fatto è la Svezia, che dal 1945 in avanti si era mossa nella direzione di un governo elefantiaco che richiedeva tasse sempre più alte, ma che poi ha toccato un limite agli inizi degli anni 90 e ha cambiato radicalmente la sua traiettoria riducendo le tasse e semplificando il sistema fiscale, cambiando il sistema pensionistico e migliorando il sistema scolastico. Quindi il cambiamento è possibile e io mi sento ottimista sul fatto che ogni paese può farcela. Un'ultima domanda per entrambi. Per l'Italia si tratta di una questione dunque di sopravvivenza? Sì, ritengo di sì. Inoltre, i costi del non cambiamento saranno sempre maggiori, come anche d'altra parte i benefici del cambiamento. Si tratta davvero di una questione di sopravvivenza. John? Sono d'accordo. Non succederà immediatamente, ma la lezione della storia è chiara. L'Italia ha dimostrato più volte che quando il suo governo funziona è in grado di competere straordinariamente bene. Il governo di un paese è un enorme vantaggio competitivo e quando è efficiente i risultati si vedono. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, in attesa di questa quarta rivoluzione, chissà, un pochettino stiamo cominciando a farla noi, oggi stessi in Italia, con le proposte di Renzi, dei Beatles, Revolution. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all wanna change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24. Ed è tutto anche per questa edizione di Effetto Giorno. Un saluto e l'augurio di una buona giornata da Alessio Maurizio. Un ringraziamento a Laura Faggin per l'assistenza in diretta in redazione e a Gianmarco Ferronato in regia. We'll